La zanzara con Luca Telese. Buonasera, allora c'è molto da ronzare oggi, ci sono cose che ci avvincono, cose che ci incuriosiscono e cose che ci divertono, ma ovviamente iniziamo subito a sentire che cosa ci ha detto il TG2. Borse in netto calo, tassi ridotti in Europa di mezzo punto, allarme recessione del Fondo Monetario nel 2009, crescita frenata dello 0,3%, prima volta dal dopoguerra. Obama già al lavoro, Bush lo terrò sempre informato. Prima sfida, la crisi finanziaria. Sarkozy, spero di incontrarlo al vertice mondiale del 15 novembre. Università, primo sì alla riforma, approvate dal Consiglio dei Ministri le linee guida. Via libera al decreto legge sui concorsi negli Atenei. Condannato all'ergastolo per 2 omicidi, scagionato e liberato, torna a casa in Sicilia. 10 anni da incubo, racconta, mai persa la speranza, ora torno a vivere. Fumatori senza pace, spunta un nuovo divieto in un comune vicino a Londra. Niente più adozioni per le coppie col vizio della sigaretta. Troppo pericoloso il fumo passivo. Allora, questo era il TG2. Sentiamo cosa ci propina questa sera. Studio aperto. In coma per uno scippo, vittima una studentessa di 27 anni aggredita a Napoli da 2 ragazzi che volevano rubarle la borsetta. Si sono avvicinati in motorino, l'hanno strattonata, lei è caduta e ha sbattuto la testa, ora è in pericolo di vita. Fermati i rapinatori, hanno 15 e 17 anni. Il nuovo presidente dovrà affrontare una crisi pesantissima, dice George Bush. Il neoeletto sceglie gli uomini della sua squadra mentre la famiglia si prepara al trasloco alla Casa Bianca. Dalla Russia Silvio Berlusconi fa una battuta su Obama e la sinistra insorge. Il premier replica: non hanno senso dell'umorismo. Più dialogo, più finanziamento per università migliore. Poco fa il via libera del governo al decreto, nessun blocco dei concorsi già banditi, assicura il ministro Gelmini. Previsti 3.000 posti in più per i ricercatori, 500 milioni di euro per gli atenei virtuosi, finanziamenti per chi elimina i corsi inutili, borse di studio per 180.000 studenti meritevoli. Ragazze italiane e straniere, ma anche gigolò e transessuali. I carabinieri bloccano un giro di prostituzione online in grado di fatturare 5 milioni l'anno. In rete un vero e proprio catalogo del sesso a pagamento. 4 gli arresti, tutto è cominciato da un servizio delle Iene. Esplode l'ira del baby campione dell'Inter contro i genitori che l'hanno abbandonato all'età di 2 anni. Siete spariti, ma è una telefonata, nemmeno per il compleanno, accusa Mario Balotelli, che è stato affidato a una coppia di Brescia. Breakdance, a Parigi si sono affrontati i 16 ragazzi più forti del mondo, tra loro c'era anche Mauro Peruzzi in arte Chico. Si è presentato con il suo record di 16 rotazioni in verticale su una mano sola, ma non gli è bastato per battere il coreano Wing. Allora, che cosa ha detto Silvio Berlusconi in Russia? Lo avete sentito nei titoli di Studio Aperto, fra l'altro fantastici, con gli archi e le chitarre elettriche. Ebbene, ha detto: Barack Obama è giovane, bello e abbronzato, e questo rappresenta certo un buon punto di partenza, anche per il nostro dibattito. Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, come bello. Allora, al nostro telefono Antonio Polito, direttore riformista. Direttore, buonasera, quanto risalto darai a questa ennesima operazione politicamente scorretta di Berlusconi domani sul giornale? Ma gli darò risalto, ma non, certo non è la prima notizia della giornata, secondo me, insomma, perché questo è un classico caso, vedi l'italiano quanto è bello, di battuta di dubbio gusto. Quindi, diciamo, è dubbio il gusto. Io trovo che non sia gradevole, non sia ben fatta, perché allude ovviamente al colore della pelle di Barack, però devo anche dire che ormai il colore della pelle di Barack è oggetto di discussioni mondiali, per cui non è che dobbiamo, non è che possiamo dimenticarci che è nero, l'abbiamo scritto tutti in questi giorni. Forse bastava dire nero invece di abbronzato, che ricorda un po' troppo la battuta di Calderoli sulla tu sul generale. Tuo giornale cosa imponi ai redattori, la dizione afroamericano o nero? Ma io veramente non penso che lui possa essere definito un afroamerican, nel senso non lo è, diciamo, tecnicamente. Non lo è tecnicamente, gli afroamerican sono i discendenti degli schiavi africani portati negli Stati Uniti. Lui non discende da uno schiavo, discende da un ricercatore kenyota andato a studiare e a lavorare negli Stati Uniti, quindi tecnicamente lui non è un afroamerican. Credo che in America dovrebbero definirlo un colored, cioè un uomo di colore, Lui è un meticcio perché è figlio di un nero e di una bianca, quindi è un classico meticcio, come se ne trovano ormai moltissimi in questo mondo globalizzato. Oh, che lettura dai di questa, a prescindere dal giudizio che hai dato? Ma due cose ti chiedo che sono importanti. Cioè, da un lato, se quando Berlusconi fa queste, chiamiamole pure sparate, abbia una strategia, una pianificazione, cioè lui ogni tanto dà delle botte assolutamente fuori da qualunque parametro politicamente corretto. Quindi la prima cosa è se ci sia, come dire, uno studio, e la seconda, che effetto hanno secondo te sull'elettorato, sull'opinione pubblica? Ma lui secondo me fa il simpatico, cioè il problema di Berlusconi da sempre è quello di piacere, di divertire, di essere un po', di prendere sempre la scena anche, no? Di essere un po' uno showman, questa si chiama, diciamo, in termini tecnici la chiamano strategia di media occupation, cioè di occupazione dei media, e naturalmente e paga? Paga questa strategia? Beh, nel caso di Berlusconi tu che dici? Direi che paga, insomma, sono 14 anni che paga. E nel caso di Berlusconi poi c'è una volontaria ricerca di sfottere, di provocare il politicamente corretto, perché lui sente, credo che in questo abbia ragione, sente che il suo elettorato, soprattutto, diciamo così, quello più, come dire, meno sofisticato, del nord e così via, ha questo gusto, no? Se, insomma, un po' la comicità, c'è anche un po' della comicità un po' meneghina, lombarda in questo, no? Questo modo di scherzare sul politicamente corretto, che lui è consapevole, credo, di fare delle cose che possono essere oggetto di polemiche da parte di chi è più politicamente corretto, ma un po' lo fa anche apposta. Avrà più conseguenze questo o le corna fatte durante il famoso vertice al ministro degli esteri belga? Ma guarda, conseguenze politiche rilevanti non ne ha nessuna, perché né l'una né l'altra, perché tutti gli statisti del mondo sanno che Berlusconi è così. Ad alcuni piace, ad altri non piace, alcuni lo trovano imbarazzante, altri lo trovano divertente, però è un po' un giochetto dato per scontato e non credo che abbia grandi conseguenze, così come non ha grandi conseguenze politiche tutta la familiarità che Berlusconi si picca di mostrare nei confronti dei leader del mondo. D'altra parte Berlusconi ormai è uno dei più longevi leader, perché lui adesso al prossimo G8 aveva sperato che di non essere il più vecchio con l'elezione di McCain, invece sarà il più vecchio, quindi insomma un po' lo devono anche sopportare chi volesse, chi non avesse voglia, diciamo, delle sue battute. Va bene, grazie mille. Allora chiudiamo con il nostro simpatico sberleffo allo sberleffeggiatore e ci sentiamo con il traffico. Eccoci qua, la Zanzara, 800-24-00-24 per intervenire, 349-238-6666, ma a giudicare dal diluvio dei messaggi questo numero ve lo ricordate bene. Allora, un altro politicamente scorretto ci scrive, doveva dire neger bastardo e un po' comunista, questo scrive un nostro ascoltatore. Ma non è ridicolo che il problema del riformista sia la battuta di Berlusca? Non ci sono problemi in Italia da osservare, Marco da Varese. Ma se Obama è figlio di una nera e di un bianco, viceversa, se è nero tecnicamente è pure bianco, no? Andrea, non ho capito. I media dovrebbero riportarle un po' meno oppure stigmatizzarle come meritano. Andrea, ma questo è un altro Andrea. Berlusconi è solo preda di un'arroganza e di un complesso di inferiorità che lo divora, mi fa una pena e un orrore infiniti. Pachi. Berlusconi ritiene di essere simpatico e più delle volte fa battute disgustose e imbarazzanti per chi le dice, da qui a farne un caso ce ne corre. È imbecille e non fa ridere, un altro ascoltatore, ma ancora state a sentire Silvio, lui gode se ne discutete. Cioè, capite che in 6 messaggi abbiamo espresso qualunque parere. Beh, sentiamo una voce live. Ernesto da Milano. Buonasera. Sì. Sono più o meno d'accordo con quasi tutti i messaggi di prima. Faccio parte di quel 30% di italiani che, avendo votato per il centro-sinistra, è stato definito in un'altra celebre battuta del presidente Berlusconi coglione. Coglio. Coglione, ci disse no, così no, una no, volta. Non lo dica tutto che coglio. No, l'ha detto lui, non l'ho detto io. Inoltre oggi, se non ho capito bene, a completamento della notizia sull'abbronzato, Berlusconi ha detto che siccome la sinistra non ha senso fiume, mi pare, può andare a puntini, puntini, puntini. Allora guardi, fermo, lei lo ha evocato, lo sentiamo. Era una carineria assoluta, per far capire come tra giovani si potessero bene intendere. Poi ho sentito gli sproloqui che sono stati fatti su questo e ho detto quello che mi è venuto dal cuore: Dio ci salvi dagli imbecilli, che purtroppo ce ne sono troppi in circolazione. Bene, ecco, scusi se l'ho interrotto. Mi sono preso anche dell'imbecille. Vorrei che qualcuno imbe dicesse... Come? Imbe. Diciamo imbe per noi. Beh, lui ha detto, ha anche finito la frase. D'accordo, mi sono preso dell'imbe. Io non rispondo a tono, però sarebbe ora che qualcuno gli dicesse di smetterla, insomma. Non è assolutamente divertente. C'è solo da sperare una cosa, che i famosi ragli d'asino non salgano al cielo e quindi la cosa non arrivi fino al presidente Obama, perché ci faremmo veramente una figuraccia a livello di nazione, di popolazione a questo punto. Bene, grazie di questo intervento, però le voglio far vedere che Berlusconi ha avuto un ghostwriter, e vi ricordate senz'altro, gli zandaristi sono molto attenti, che nel febbraio del 2006 l'allora ministro Calderoli... Francamente mi spiace, non so il nome della signora, quella bronzata, insomma, quella che diceva del deserto, del cammello, sì, quella quelli che si comportano come quelli che si sono comportati oggi, se torna nel deserto tanto di guadagnato, veramente. Questo era Calderoli, chissà che questa idea della bronzatura non arrivi da lì. E abbiamo un'altra chiamata, allora 824-0024, sentiamo Leonora da Roma. Salve, buonasera a tutti. Io faccio un intervento che esce un pochino dal tema di cui si sta dibattendo ora, ma credo che sia comunque possa essere interessante. Io sono la mamma di 6 bambini e proprio 2 giorni fa, mi sembra, è uscito appunto la notizia che c'è una nascita pari a 0 in Italia, e così per i prossimi, si preventiva per i prossimi 2 anni. Io a malincuore e con profondo dolore devo, dall'alto della mia esperienza, sconsigliare veramente di fare tanti figli, perché purtroppo non c'è la possibilità di mantenerli, pur veramente facendo 2 lavori, sia io che mio marito, di tutto rispetto, ma non ci sono assolutamente leggi che aiutano nella maniera più assoluta delle famiglie numerose, né leggi comunali, né leggi regionali, né leggi statali. Guardi, la capisco benissimo, perché a me basta averne uno per avere molti problemi di asilo, di logistica. Guardi, ma io le assicuro che è triste. Io sono una persona che crede fortemente nella famiglia, adoro la mia famiglia, però se mi dovesse dire, lo consiglierebbe con tutte le gioie che dà, che sono infinite, mi creda, ma purtroppo il problema economico è grande, è insormontabile, mi creda. E la cosa più triste è che noi viviamo vicino a Roma, ma in un paesino, e le persone che sono più menefreghiste, tra virgolette, sono proprio l'amministrazione comunale, che è scandaloso, perché sentirsi dire dall'amministrazione comunale no, perché non possiamo aiutarvi perché creiamo un caso, ma quale altro caso in un paesino così di... Ma lei che aiuto aveva chiesto? Scusi, mi viene questa curiosità. Nello specifico io avevo chiesto di l'esonero, o quantomeno un contributo nel pagamento della mensa scolastica. Lo sa quanto pago io per ogni mio figlio? 4 Dica. Euro al giorno, quindi sono 24 euro al giorno. Io con 24 euro ci mangio 2 giorni in 8. Cioè, è sproporzionato, ma a prescindere dal dibattere se è o meno giusto l'ammontare, io dico che non può un comune non prevedere un aiuto per una persona che fisicamente molto, sborsa 24 molto, euro molto chiaro. Quindi voi spendete circa 600 euro solo dirette di refertori. Mi capisce? Va bene, cosa fate lei e suo marito? Guardi, io sono una ricercatrice e lavoro a un ministero a Roma, non so se si può dire, e mio marito fa l'agente immobiliare, quindi due lavori di tutto rispetto, certo. E io vorrei continuare a vivere una vita dignitosa, ma soprattutto non avere l'angoscia quando si va a chiedere qualcosa che sembra che stia chiedendo quasi, certo. Va bene, chiarissimo, mi sembrava giusto dedicare uno spazio, perché i politici parlano tanto di questi problemi, poi ogni volta che si arriva ai casi concreti si scopre che nessuno fa niente. Sentiamo un po' il nostro repertorio del giorno, scelto dai tre banditi che compongono questa redazione. Allora, Berlusconi ha parlato anche dei famosi graffiti. C'è un'altra cosa che stiamo studiando, c'è un imperversare di graffiti, chiamiamoli col termine nobile, sulle case italiane, che rende molte città più vicine alle città africane che alle città del centro Europa. Il ministro dell'Ambiente con altri ministri sta in questi giorni studiando un intervento del governo affinché si elimini questa abitudine che imperversa e che francamente fa delle nostre città qualche cosa di molto lontano da quello che dovrebbero essere e che ci espone anche a delle critiche molto giuste da parte dei turisti stranieri che visitano le nostre città. E mandiamo un D'Alema che, criticando il governo, lo ha paragonato addirittura a una famosa striscia di un fumetto americano. Non è tollerabile, diciamo, questa continua forzatura e questa manifestazione continua di prepotenza. Oltretutto questo non aiuta neanche le decisioni. Mi ricorda, diciamo, la famosa strip di Snoopy che diceva: oggi ho preso 100 decisioni, si ferma e fa tutte sbagliate. Quindi non è vero che per decidere bisogna calpestare la democrazia. Vediamo come ha imbandito la tavola delle pietanze della giornata il TG3. Berlusconi su Obama, è bello giovane abbronzato, non è una gaffa, poi spiega umorismo, l'opposizione battute penose, scredita l'Italia. Fini frena al governo, deprecabile la fiducia sulla finanziaria, il premier replica, non ha capito che è finito l'assalto alla diligenza. La Banca Centrale Europea taglia di mezzo punto il costo del denaro, ma le borse europee vanno a picco, il fondo monetario e la crisi si fa più pesante. Negli Stati Uniti il neo presidente Barack Obama già pensa alla squadra di governo, il Pentagono fuori dall'Iraq entro il 2011. L'offensiva dei ribelli riaccende la guerra civile in Congo, nel nord a Kivu arrivano i blindati ONU, molte vittime civili in fuga. Il ministro Gelmini presenta il suo piano per l'università, il Consiglio dei Ministri approva il decreto legge, meno tagli e premi per gli atenei più virtuosi. È in coma la ragazza scippata e trascinata a terra al centro di Napoli, fermati due minorenni. Da Ligabue a Jovanotti, da Tiziano Ferro a Pino Daniele, 8 grandi autori firmano le canzoni del nuovo disco di Fiorella Mannoia. Rieccoci allora, avete visto, anche la Mannoia entra nel sommario del TG3. Noi abbiamo ancora un paio di perle da darvi, perché finalmente la nostra possente redazione, le tre teste pensanti che vagano in tutti i motori di ricerca, hanno trovato la fatidica frase incriminata, quella che sta animando tutta la stampa italiana. È un po' sporca, però ha il suo fascino. С более легким отношением. Я сказал президенту, что Обама имеет все для того, чтобы договориться и следовать. Он молодой, красивый и даже хорошо загорелый. Поэтому я думаю, что он здесь можно на самом деле... Avete visto? C'era la traduzione russa, quindi non sappiamo come il traduttore abbia riconvertito, ma si sentiva nettamente quella battuta. Giovane e abbronzato. Allora... Rula Gebral, che fu lei l'oggetto, l'avete sentito poco fa, della famosa battuta di Calderoli nel 2006, l'ha commentato così: sentendo queste parole sono caduta dalle nuvole e sono dispiaciuta, rammaricata. Le parole sono uguali, le stesse, magari con un tono diverso, uno fa delle battute, l'altra invece la fa con l'intento di ferire. Io vorrei ricordare soltanto al Presidente del Consiglio che quando parla, parla al nome di tutti noi, compreso suoi cittadini di colore diverso di pelle, quindi parla al nome di una nazione intera, di una nazione unita fatta di bianchi, neri, rossi, gialli, e che quando apre bocca bisogna davvero riflettere sulle conseguenze delle proprie parole, perché non solo feriscono, trasmettono messaggi ambigui a una nuova generazione, che sono messaggi di divisione, non di unione. Allora, una chiamata a Marco da Vercelli e poi abbiamo il nostro ospite per parlare di cose forse più serie, e cioè la nuova politica estera di Obama, con un personaggio d'eccezione, l'ex ministro degli esteri, Parisi, della difesa, Marco da Vercelli. Lavoro a Milano in un ufficio dove da 23 anni lavora un fattorino nero eritreo. gli ho telefonato un quarto d'ora fa, gli ho chiesto se la frase di Berlusconi era offensiva e si è messo a ridere. No, affatto, mi ha ricordato che lui tutti gli anni a fine agosto mi prende in giro perché io non sono mai abbronzato come lui. Va bene, è una testimonianza interessante. Giuseppe da Bari. Buonasera e grazie. Buonasera. Per lo spazio che mi date, che date a tutti gli ascoltatori. 824-0024 per intervenire. Pronto? Prego. Posso parlare? Sì. Pronto? Sì, prego, prego. Ecco, dicevo, grazie per lo spazio e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Dunque, volevo proprio parlare della frase di Berlusconi, che secondo me, se arriva alle orecchie di Obama, si fa una grossissima risata. Ci arriverà sicuramente. Ecco, e si farà una grossissima risata. Noi purtroppo, italiani, su tutte le cose dobbiamo costruire dei castelli per polemizzare, per strumentalizzare e via dicendo. Addirittura la sinistra insorge, addirittura i telegiornali aprono con questa notizia, ma possibile che non ce ne siano di più importanti di notizie? Ecco, ogni volta che parla Berlusconi si crea un caso, addirittura ho sentivo poco fa, addirittura Berlusconi parla a nome degli italiani, quindi deve stare attento, ma credo sia una battuta quella che ha fatto Berlusconi e ripeto, Obama si farebbe veramente una grossa risata. Piuttosto impariamo dagli americani. Sì. Credo che McCain abbia dato una grande lezione al mondo quando ha ammesso la sua sconfitta e ha detto: da adesso in poi ci metteremo a lavorare. Ecco, grazie, è quello mille, che dovremmo fare, grazie. Noi italiani, grazie. Grazie mille. Allora presento Arturo Paisi, ex ministro della difesa del governo Prodi, dell'ultimo governo di centrosinistra, da una battuta all'altra, perché lui ne ha fatta una veramente divertente, molto molto raffinata. Dice: abbiamo vinto in Ohio, resta l'Abruzzo da conquistare. Che cosa voleva dire, ministro? Beh, quello che capiscono tutti, insomma, che bisogna che tutti rientrino in Italia e innanzitutto in se stessi, e poi da lì riprenderemo a ragionare. Quindi lei sente un eccesso di obamania? Ma un eccesso di americanismo della domenica. Adesso la tentazione di fare gli americani per gli italiani è una tentazione antica. C'è una bellissima canzone di Carosone che ha accompagnato la mia giovinezza. È meravigliosa quella canzone, ha ragione che fotografa un carattere nazionale. Io con lei volevo parlare, per smettere diciamo di sollevare polveroni e di andare un po' alla sostanza, della nuova politica estera che la nuova amministrazione americana potrebbe tenere. La farò divertire. A occhio e croce sembra che Obama abbia la linea che lei sosteneva, cioè il punto forte della sua campagna elettorale è stata l'idea del ritiro dall'Iraq e di rafforzamento delle truppe in Afghanistan. Ma più che il punto forte della campagna elettorale è stato il punto forte dell'azione di governo. Noi, come avevamo detto agli elettori, per la verità interpretando una domanda trasversale che accomunava tutti gli italiani, quando tornammo perfino Berlusconi disse: beh, in fondo l'avevo detto anch'io, voi vi siete limitati a farlo come se il passare dalle parole ai fatti fosse un dettaglio. E non faccio battute, non sia cattivo. No, ma mettiamola in ridere, visto che lei l'avrebbe mai potuto dire che Obama è abbronzato? Sì, l'avrei potuto dire lasciando andare anche quel tanto di irresponsabilità che c'è inevitabilmente in questo lasciarsi andare alle battute. Resta una battuta irresponsabile, ma tuttavia una battuta. Il fatto è che a Berlusconi gli piace essere il Presidente del Consiglio, ma gli piace meno farlo e si dimentica infatti troppo spesso, da questo punto di vista, anche con un tono minore, ripeterei quello che è stato detto, di rappresentare tutti gli italiani e quindi di dover misurare le parole, diciamo così, anche oltre il lecito, ecco, oltre quella che è la normalità. Quindi lei è sulla linea Gebrato. No, le chiedevo, secondo lei, che quindi posto che mi ricordo che con la vecchia amministrazione americana lei litigò quasi, se si può usare questo termine, cioè ci fu anche uno scambio di messaggi, l'ambasciatore americano che protestava perché la posizione dell'Italia era questa, no? Che senso ha? No, la protesta era sull'Afghanistan, quando l'ambasciatore americano assieme ad altri ambasciatori si rivolse direttamente ai cittadini italiani per richiamare all'impegno di sostenere l'azione in Afghanistan, definì quell'azione irrituale, considerato che gli ambasciatori sono ambasciatori presso il governo del paese ed è il governo del paese. Senta, che Parisi, ha il compito di parlare con i suoi cittadini, non gli ambasciatori degli altri paesi. Una brevissima interruzione per gli aggiornamenti sulla borsa. Vorrei che poi lei ci spiegasse che senso ha rafforzare l'intervento in Afghanistan strategicamente e militarmente ed indebolirlo in Iraq. Ma se bevi whisky and soda. Al telefono l'ex ministro della difesa Arturo Parisi, a cui stavamo chiedendo una lezione di tattica e di strategia, cioè se intanto capire se è giusta la politica di Obama di ritirarsi dall'Iraq e di intervenire con più truppe in Afghanistan, e secondo che senso ha questa mossa. Ma guardi che l'intenzione di chiuderla con l'avventura irachena era nel programma anche di McCain, la distinzione tra i due era nei tempi e nei modi, anche se all'inizio diverse furono le posizioni, perché Obama era contrario e viceversa McCain era dalla parte di quelli che quell'avventura promossero. Poi una cosa è partire, una cosa è tornare, e quindi Obama, che adesso è l'America, si troverà di fronte agli stessi problemi che aveva previsto McCain. Non c'è il rischio che l'Iraq, abbandonato a se stesso, ritorni un focolaio di insurrezionalismo più o meno terroristico? Ma guardi che l'America è andata in Iraq non perché l'Iraq fosse un focolaio del terrorismo. Purtroppo il terrorismo è esploso dopo l'intervento americano. Il caso iracheno è diverso dal caso afghano. In quel caso l'intervento fu perché si immaginò a ragione che lì fosse collocata la centrale che era all'origine dell'attentato alle due torri. Nel caso dell'Iraq stanno ancora a chiedersi perché ci sono andati, tuttavia stanno anche a tirare le somme e il bilancio del disastro che è stato prodotto. Certamente in risposta a quella che indiscutibilmente era una dittatura insopportabile, anche se con quella dittatura gli Stati Uniti ci avevano fatto in passato delle alleanze. Senta, ma tuttavia un bilancio che ha nella voce del dare una tale quantità di lutti, di morti, di terrore, che certamente non consente di temere il futuro più di quello che è stato il passato. Da questo punto di vista il giudizio purtroppo è convergente e generalizzato. La discussione riguarda solo il modo con cui chiuderla. Le chiedo un'ultima cosa sul suo Partito Democratico. Eravamo partiti dalla sua battuta deliziosa sul fatto che dopo l'Ohio bisogna conquistare l'Abruzzo. Che cosa c'è che non va? Perché lei è fortemente critico sulle mosse della leadership veltroniana. Beh, quello che non va, beh, qui se ci mettessimo a parlare sarebbe... Abbiamo solo due ore, non ce la possiamo... Ce ne sarebbe per giorni. E quello che non va è che le scelte sono vere se sono vere le analisi, le risposte sono fondate se sono corrette le domande. E quello che dentro il Partito Democratico ancora non è adeguato è un confronto democratico che consenta alle diverse voci e valutazioni di confrontarsi pubblicamente. Non c'è un confronto democratico dentro il Partito Democratico? Dentro il partito, non sui giornali, e per approdare a decisioni assunte democraticamente. Invece, come vede, questo gran discorrere preferisce prendere la strada dei giornali, quindi trasmette l'idea di un baccano che trova difficoltà a chiudere. C'era più democrazia nella Margherita? Guardi che la storia non è iniziata con la Margherita, neppure finita con la Margherita. Certo. Certamente nella Margherita c'era più pluralismo e più confronto esplicitamente dichiarato. Dentro il Partito Democratico non siamo riusciti ancora a parlarci. Ma qual è l'errore, se lei potesse parlarci, che rimproverebbe a Veltroni, il più grande? Beh, il primo, quello di essersi candidato a Presidente del Consiglio per sostituire Prodi nel tempo più veloce possibile e non viceversa, affondare un partito come era stato chiamato a fare. Quindi lei imputa la caduta del governo Prodi alle mosse di Veltroni dopo le primarie? No, non arriverei a dire questo. Certamente di fronte alle difficoltà del governo Prodi c'erano forze che si sentivano impegnate a superarle, invece altri che non si trattennero dall'aggravarle e da investire in queste difficoltà un futuro, quel futuro che oggi noi chiamiamo disfatta del centrosinistra. Mamma mia, disfatta è una parola terrificante. È una parola terrificante. Discutendone in pubblico ho esitato tra disfatta e catastrofe, sconfitta. Vabbè, allora, è insufficiente. Se la scelta era questa, disfatta è la più morbida. È la più moderata, come vede. Va bene, grazie ad Arturo Parisi, lo risentiremo presto, lo salutiamo e andiamo subito ai nostri ascoltatori. Lorenzo da Roma, di cosa ci vuole parlare? Ma quattro flash. Quattro? Dunque, no, sono velocissimo, velocissimo. Allora, dunque, ho vissuto in quattro paesi diversi dall'Italia. Posso testimoniare che l'opinione che hanno di Berlusconi non è affatto lusinghiera. Per cui io ritengo che in realtà questi suoi atteggiamenti, questo suo comportamento da furbetto ci danneggia. Io credo che l'Italia, gli italiani in sostanza si salveranno, tra virgolette, se si apriranno l'Europa, si inizieranno a pensare, a lavorare, a trasferirsi dall'Italia in qualche paese europeo, insomma, se ci integriamo di più. Il fatto che chi ci rappresenta invece insomma ci danneggi sicuramente non aiuta. Seconda cosa che volevo insomma ricordare è che mi è piaciuto moltissimo, sono piaciute moltissimo le parole di McCain, veramente mi hanno toccato e commosso, gli ho creduto quando si è congratulato con Obama e mi è veramente piaciuto, vorrei tanto che succedesse lo stesso in Italia. Se non sbaglio Veltroni fece una cosa simile nell'ultima elezione, invece in a quella precedente Berlusconi parlò di brogli elettorali, ecco, questo forse è stato una delle differenze tra l'America e l'Italia. Riguardo Obama, mi piacerebbe che riaprisse le indagini sui eventi dell'11 settembre. Ultima cosa, non capisco perché in Italia quando si va a un ufficio pubblico tipo motorizzazione ti danno un pacco di bollettini postali da pagare, andare quindi per un altro ufficio statale per pagare per poi ritornare con i bollettini pagati. Questo esiste solo in Italia, in altri stati si paga con il banco, ma punto e basta, insomma. Fine dei miei quattro flash. Bene, ecco. Quattro, addirittura quattro, gli altri non si abituino. Maurizio da Catania. Sì, buonasera, io premetto che non avevo sentito l'intervento di Berlusconi che riguardava il nuovo presidente dell'America. Volevo partire da questo per anche perché lei come catanese qualche un che di africano ce l'ha. Sì, non... sì, ma a questo punto ce ne vantiamo, visto che fanno queste le cose e il mondo, grazie a Dio, cambia. No, perché penso che le parole del presidente che ci rappresenta ci fanno capire che forse noi che siamo governati da loro forse abbiamo un po' più di buonsenso, nel senso che può essere che uno stile mediatico anche il suo, però io preferirei che in questi momenti così gravi per tutti la politica abbia più riflessione e manifesti più serietà anche nelle parole. Vengo al tema. Il tema riguarda la fiducia che si paventa il governo voglia mettere sulla questione della finanziaria. Ah, guardi, mi fermo un attimo perché abbiamo proprio un'opinione che su questo ha espresso il presidente della Camera Gianfranco Fini. Sentiamola insieme e poi vediamo che cosa ne pensa lei. Via. Qualora su quel testo il governo addivenisse alla decisione di porre la questione di fiducia, ovviamente decisione del tutto legittima, ci troveremmo purtuttavia in presenza di una situazione che non soltanto sarebbe anomala, ma che a mio modo di vedere sarebbe politicamente deprecabile. Quindi vede che Fini ha chiamato politicamente deprecabile l'eventuale corso della fiducia? Perfettamente, io sono perfettamente d'accordo e lo vorrei brevemente motivare. Innanzitutto con un discorso di carattere oggettivo, è ovvio che la situazione è cambiata repentinamente, il contesto, e quindi è giusto che si rivedano magari delle riflessioni fatte prima alla luce di quello che è successo oggi, anche perché questa crisi è una crisi che almeno io ho 50 anni, premetto che non sono iscritto a nessun partito politico e lavoro nel settore finanziario e non ricordo mai una situazione di questo genere che è dell'eccezionale e che quindi ha fatto crack lei? Come? Ha fatto crack lei? No, grazie a Dio, ancora no, mi difendo, però... Non aveva subprime, non aveva fondi di investimento subprime. Sì, no, mi sono tutelato in questo. No, io volevo dire proprio che, visto che l'interesse generale, la gravità della situazione, non si possono accettare delle tipi di risoluzioni unilaterali chiamando un'altra volta in campo la fiducia. Perché a questo punto io vorrei capire la Repubblica parlamentare a cosa dovrebbe servire. Cioè, è inutile ogni volta chiamare, diciamo, questa è la strategia della paura, la strategia della sicurezza, i vari avvisi ai naviganti che stimano gli opposti estremismi che si erano sopiti e di cui nessuno ricordava. Per fortuna. Ho capito. Lei è un moderato. Mostrare i muscoli sulla scuola, sugli studenti che manifestano, sul problema dell'immondizia e anche ora a questo punto sul Parlamento, perché io penso che questa sia veramente una prova di forza nei confronti del Parlamento che ci rappresenta, che non è, ecco, dal punto di vista di cittadino, francamente per quello che ho detto, condivido quindi il parere molto più autorevole di Fini. Non sia possibile, io mi auguro veramente che ci sia una prova a Milano. Buonasera, mi chiamo Giuseppe Borsani, sto chiamando dalla Lombardia. Io sono un cittadino lombardo che è un po' stufo, come tanti penso, del vizio tipicamente italiano di sprecare fiato e polemiche su ciò che è correttamente, politicamente corretto oppure no. Io penso che si dovrebbe a volte badare ad altre cose. E tra l'altro colgo l'occasione per esprimere il mio parere sul politicamente corretto, che in realtà è un qualche cosa che ci viene inculcato da coloro che hanno la possibilità di diffondere il loro pensiero, e in realtà poi spesso questo politicamente corretto non è condiviso dalle masse. Io mi ricordo benissimo che una volta si diceva tranquillamente negro anziché nero, a un certo punto hanno cominciato a insegnarci che era da razzisti mettere quella benedetta G. Adesso se uno dice abbronzato Obama, che può essere veramente ed è e rimane una battuta, si scatena il pandemonio. Io penso veramente che stiamo un po' esagerando, sono un moderato assolutamente che sta pian pianino diventando un estremista, proprio perché sono stufo di queste continue sottigliezze, di queste continue lezioni di morale, di politicamente corretto. Si sta scatenando in me, e non soltanto in me, la reazione è esattamente opposta. Grazie, Ercole da Ravenna. Io chiamo da Cervia, siamo al mare, e qui qualche tempo fa... Quindi lei è abbronzato per motivi meteorologici. Ma io sono proprio... sono abbronzato d'estate un po', però sono di carnagione chiara. Classico ravennate di colore. Ma noi qui usavamo l'abitudine di chiamare abbronzati i venditori ambulanti sulla spiaggia, no? Guarda come è abbronzato quello, come ironia, no? Ma finché lo si scambiava tra di noi, ironizzando in maniera bonaria, perché credo che perché noi il culto della tolleranza qui sulla Riviera l'abbiamo sempre avuto, il concetto di razzismo non ci appartiene proprio perché viviamo di turismo e già il turismo è fatto di tante razze, poi che venissero turisti bianchi, gialli o rossi, purché fossero turisti, ci andava bene, ci è continuato anche ad andare bene il fatto che ci fossero anche dei venditori extracomunitari, tra l'altro forse li abbiamo fatti proliferare anche un po' troppo, ma detto questo io mi sono sentito stimolato e faccio questo intervento perché finché questo tipo di ragionamento lo facciamo noi privatamente, ma uno statista secondo me dovrebbe non attenersi ad un'etica chiamiamola di politicamente corretta, ma ad un comportamento rispettoso verso gli altri. Io ritengo che se noi avessimo sentito George Bush citare Berlusconi in un'intervista dicendo ma chi quel signore anziano con i tacchi o con trapiantato. Ecco, esattamente, trapiantato. Cioè, io penso che noi non avremmo avuto l'impressione che George Bush fosse stato uno statista. Io credo che chi ascolta... Bene, facciamo parlare tutti. Sentiamo Antonio dall'Aquila, un altro ascoltatore. Buonasera. Sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatore di prima. Non è una questione di politicamente corretto. Queste frasi pronunciate da un primo ministro comunicano un'immagine e forse in questo caso anche più di un'immagine. Anch'io come un altro ascoltatore sono spessissimo all'estero, molto spesso, e devo dire che ogni volta che si parla di politica, i sorrisini, le battute e anche non leggere su Berlusconi si sprecano. Ormai siamo divenuti pizza, spaghetti, mandolino e Berlusconi. Ho capito. Con l'accezione negativa. Un altro parere, Claudia da Roma. Il mio parere è lo stesso delle telefonate precedenti, cioè io sono proprio rammaricata, come dicevo appunto alla vostra collaboratrice, sono l'altra mattina presto ho sentito in diretta il discorso di Obama e ho provato invidia per il popolo americano perché loro ci hanno avuto il coraggio di rischiare con un giovane finalmente un nero e sono stata invidiosa di un sogno americano. Noi questo sogno purtroppo non ce l'avremo mai perché noi abbiamo sempre gli stessi Berlusconi, gli stessi Veltroni, gli stessi Rutelli, Cossiga che ogni giorno ne tira fuori una, cioè basta. Noi che futuro ci abbiamo per i nostri figli con questi signori che si riciclano sempre loro stessi? Molto chiaro, 824 0024 per intervenire, sentiamo anche Gaetano da Bologna. Buonasera, salve, intanto adesso anche allacciandomi un po' a quello che hanno detto gli altri ascoltatori, io eviterei di parlare di politicamente corretto, cioè io sono un liberale che non vota, innanzitutto non voto perché non credo che a questo punto ci sia un partito, che può rappresentare, io sono figlio di industriali, sono un liberale, credo che il liberalismo non sia fatto al modo in cui pensa Berlusconi, che si allaccia più a un liberismo che dice io sono il più forte, il migliore, per questo ho successo. Io mi allaccio a un liberalismo che poi è quello che ha fatto la nostra società, la nostra età contemporanea, sono subentrate anche le masse proletarie che hanno fatto la loro parte, però insomma dall'Ottocento in poi è stata la borghesia, con la borghesia raffinata, quella che sa apprezzare i romanzi, che Berlusconi si vanta di non leggere, quella che sa apprezzare la musica classica, Bado, Mutti, Pollini, Accardo, eccetera, eccetera. Insomma, non si parla di politicamente corretto, una persona sensibile, raffinata, che ha il senso del rispetto degli altri, non è che pensa al politicamente corretto, non gli viene neanche di dire certe cose. Quindi anche Parisi dice, ma anch'io forse avrei fatto questa battuta, ma siccome è politicamente scorretta forse ci avrei ripensato. È il fatto semplicemente di pensare, di farla. Cioè, non è questo, io mi allaccio al liberalismo, come dire... Scusi che ho una scadenza tassativa, però mi pare lei abbia espresso il pensiero. I nostri ascoltatori sanno che c'è persino un sito, l'Antizanzara, che si dedica ogni giorno al commento di questa puntata. Oggi i nostri recensori hanno detto che gli è piaciuto molto il rap che le possentimenti e la redazione avevano selezionato. Bene, allora intanto ve lo facciamo risentire, così restiamo in argomento. Come si dice, come si chiama, Obama, Obama. Oye mi gente, este es un hombre preparado, la esperanza ha llegado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama, Obama. E certo, se lo senti una volta questo ritornellino fesso ti rientra nella testa, e le canzonette sono così, hanno questo potere, e soprattutto ricorderemo questo raggetton come il segno di un tempo. Alberto da Milano, cosa ci vuole dire? Sì, buonasera, guardi, io ho vissuto per 5 anni negli Stati Uniti e posso portare la mia esperienza in merito a cosa ne pensa la gente di Silvio Berlusconi. Purtroppo l'opinione è pessima. Perché, insomma, sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista della giustizia, sotto il punto di vista del potere mediatico. Ma tutti solo di questo volete parlare oggi? Si vede che sarà irrilevante, ma bucato questa... Guardi, ma purtroppo è la nuda e cruda verità, perché pensi che considerano pure un circo quello che hanno messo su quando è stato invitato a parlare, mi pare, al Senato, che è stato uno dei pochissimi italiani, credo forse certo, l'unico insieme a Giulio Andreotti a parlare al Senato americano, e dicevano che era una pura operazione di campagna elettorale, un favore concesso a Berlusconi da parte di Bush per aumentare la popolarità anche all'estero. La devo fermare perché incombe il TG1, siamo sempre tirannici su questo. Denaro, ma le borse europee scivolano e bruciano 300 miliardi di euro. Obama lunedì alla Casa Bianca per avviare il passaggio di consegne con Bush. Il suo staff, attenti, non faremo miracoli. Berlusconi a Mosca, Obama bello, giovane e abbronzato. Veltroni, pessima battuta sulla finanziaria, botta risposta tra il premier e Fini. Varato il decreto legge sull'università, Gelmini, niente blocco dei concorsi, commissioni si cambia. Del Piero, notte da sogno al Bernabéu per il fuoriclasse della Juventus. Spagna lo applaude, domenica festeggerà 34 anni. Del Piero continua a stare sulla breccia, mi scuso con l'ascoltatore che avevo interrotto, però mi pare che avesse espresso tutto il suo pensiero, quindi siamo contenti. Marco da Vicenza. Sì, buonasera ascoltatori, permettete un po' di emozione perché è la prima volta che parlo in linea. E niente, io faccio un libro professionista, sono un progettista e voglio dare la mia impressione su quello che è un po' l'andamento un po' del nostro settore. Trovo che il fatto burocratico in Italia sia un qualcosa di veramente insormontabile. Abbiamo un ministro che ha detto queste semplificazioni, tra virgolette, che tutto sommato come linea politica la seguo anche, però trovo pochi risultati, insomma. Certo. Mi trovo spesso in situazioni, essendo un progettista termotecnico, per esempio, con le detrazioni del 55%, addirittura nel nord-est cominciano a calare addirittura le detrazioni del 55%. Perché? Perché oltre all'onere del cliente di pagare l'installatore che deve fare queste sostituzioni, questi adeguamenti, ci sono delle parcelle di professionisti che sono conseguenza di interpretazioni di tutto quello che deve seguire il professionista per riuscire a essere aggiornatissimo su queste che sono le normative vigenti. Ci troviamo in situazioni che una parcella professionista si gira come minimo sui 600 euro. Ragione, allora, sono drammatica, no? Incredibili, ha ragione. Allora sentiamo i titoli del TG5 e poi torniamo a discutere. La BCE taglia i tassi al 3,25%, spinta all'economia e rate dei mutui più leggere. Borsa europea in forte calo, negativa anche Wall Street. Barack Obama sceglie la squadra di governo, promette 5 milioni di posti di lavoro, ma con l'energia pulita. La prossima settimana incontrerà Bush. Incontro a Mosca tra il presidente Medvedev e Berlusconi. Di Obama dice sorridendo: è giovane, bello e abbronzato, ha le qualità per avere ottimi rapporti con la Russia. Centrosinistra all'attacco e lui replica: il mio era un complimento. Via libera del governo alle linee guida sull'università. Il ministro Gelmini, nessun blocco dei concorsi, riduzione dei corsi inutili, più risorse per merito e qualità. Una ragazza di 27 anni è in coma dopo uno scippo subito nel centro di Napoli. Fermati due minorenni riconosciuti dalla sorella della vittima. Maltempo e danni in Liguria e Calabria. Arriva l'australiana, minaccia di mettere a letto 7 milioni di italiani. Gli esperti, vaccinate, bambini e anziani. Sempre più numerosi i giovani che scelgono la campagna per una nuova attività. Quasi 20.000 le nuove imprese, agriturismo, colture bio e allevamento di cavalli. Allora, rieccoci a discutere. Non c'è solo la battuta di Berlusconi, alcune cose grosse, e per esempio i provvedimenti di Gelmini sull'università. Cercheremo domani magari di approfondire direttamente con il ministro che cosa è successo dopo tante polemiche. E poi c'è una cosa che mi interessa molto, che è il taglio dei tassi, perché sapete che essendo io un detentore di un mutuo a tasso variabile, sono molto sensibile al tema. Gianmarco da Firenze. Sì, buonasera. Buonasera. No, io ho chiamato perché sento tutti questi ascoltatori che si dannano l'anima per questa battuta di Berlusconi, ma cioè, il mio parere è questo, in merito a questa battuta e a tutta l'azione di governo, in merito a qualsiasi cosa sta accadendo da aprile ad ora in questo paese, la realtà è che ad aprile il centrodestra ha vinto col 9% alla Camera e il 9% al Senato, e queste persone non sanno più a cosa attaccarsi. Questo secondo me, e quindi ci si attacca anche a queste stupidaggini. Il problema è che, per loro ovviamente, il problema è che il centrodestra, secondo me, con questi chiari di luna non se lo levano di torno per almeno 10 anni, secondo me. Perché se questo è lo spessore, veramente, trovo che siano molto buffe queste cose, quantomeno buffe. Vi ringrazio. Bene, Giuseppe da Bologna. Buonasera. Ascolti, volevo intervenire sulla battuta di Berlusconi. Anche lei, 30 sì. Telefonate tutte su questa battuta. Ma, cioè, sì, poi chi è pro, chi è ferocemente... Non ho potuto seguire l'ultima mezz'ora, purtroppo, di trasmissione, quindi non lo solo so, di questo. Bene, vabbè, comunque, prego. A questo punto, noi quello che interessa a voi interessa a noi. No, beh, era semplicemente dire che non c'è da meravigliarsi per le sue battute, del resto, voglio dire, si è fatto fare figuracce bruttissime anche in passato, tipo il parlamentare tedesco che l'ha chiamato capo, eccetera, no? Infatti non so come questa persona sia capo del governo, incredibile. Ma a prescindere, e poi anche tutti gli altri politici, voglio dire, ci sarebbe da aprire un discorso ampissimo sui politici in generale, soprattutto quelli italiani, ma mi soffermo qui. Più che altro volevo dire, per l'elezione di Obama, non so se è già stato detto, che molti dicono che il presidente di colore non è un cambiamento, invece secondo me è un cambiamento, è il primo cambiamento, in quanto la gente di colore in America viene trattata come sappiamo, vedi anche le prime elezioni di Bush dove con diciamo Manini, a Bologna si dice così, cioè cancellando 24.000 circa. Io ho visto fare la 9-11 l'altra sera, no? Vedevo che sono stati i voti delle persone di colore. Sono sì, lo ricordiamo, era il documentario di Michael Moore. Esatto, esattamente. Sull'amministrazione Bush. Cioè, quindi lei ha salutato privatamente l'amministrazione Bush. Arrivano tante telefonate, devo dire che è quasi un record, saranno arrivate 25 telefonate finora all'824 0024. Chi è ferocemente arrabbiato con Berlusconi, chi è ferocemente a suo sostegno, ma tutti vogliono parlare di questa telefonata. Allora vediamo se Angelo da Milano ha in mente, che ne so, un altro tema, le licenze edilizie. Pronto? Buonasera, lei per cosa ha chiamato? Buonasera Telese, buonasera. Buonasera. Allora ho sentito il suo sfogo. Allora, no, anche lei voleva parlare di Berlusconi, lo ammetta. Aspetti, sì è vero, lo ammetto. Allora, vabbè, ma se vi interessa, bene. No, ma aspetti, volevo soltanto, ho sentito, diciamo un'altra cosa prima. Ho sentito una sua telefonata con il signor Cruciani, che è negli Stati Uniti a seguire le elezioni americane. E quindi diciamo faccio una domanda aperta, visto che io non ho questa possibilità. Sarei curioso di sapere, che ne so, un suo aneddoto, una sua, quando ritorna, insomma, cosa l'ha colpito di più delle elezioni statunitensi, magari. Benissimo, allora mettiamo da parte questa sì, sua domanda, e lei non voleva dire nulla sulla battuta di Berlusconi. Per quanto riguarda, oramai voglio dire, oramai diciamo lui è fatto così, l'abbiamo capito. La maggioranza dei miei connazionali l'ha votato, io devo avere rispetto, E di conseguenza io penso che la maggioranza dei miei connazionali l'ha votato perché pensa e spera che faccia delle cose. Queste sono, alla fine sono battute, lasciano il tempo che trovano. Lui è un premier, dovrebbe, non dovrebbe farle, però se lui è fatto così e si diverte, speriamo che divertendosi poi faccia divertire anche noi, insomma, ecco. Questa prenda è una posizione che non avevamo ancora sentito. Claudio da Firenze. Sì, salve, buonasera. Buonasera. Io volevo 824, ho che aveva un muto. Intervenire. Sì. Ho sentito che aveva un muto e quindi io sono come lei, uno che ha il muto, e quindi oggi trova motivo magari in parte anche di gioire che nei prossimi mesi vedete calare la propria rata del mutuo di qualche 10 euro, no? Però certo, voglio dire che il taglio dei tassi di interesse è anche, se vogliamo, una medicina ormai tanto agoniata che potrebbe aiutare il mercato, quell'azionario, quello in generale, anche obbligazionario, a tornare sui suoi binari e quindi a riportare fiducia nel mondo. Io questo è quello che mi auguro, no? Poi dopo, mentre che aspettavo, sentivo tante telefonate che parlavano del presidente Berlusconi, della battuta. Posso dire qualcosa? Certo, non glielo vieto, certo io. No, io penso che sono battute, io ascoltavo nella vostra radio. Però deve mettersi in un posto in cui prende meglio, perché la linea va e viene. Ho sentito la vostra radio e l'intervento completo. Io credo che sia un intercalare all'interno di un discorso, e però mi preoccupa che molti elettori di sinistra telefonino così talmente tanti inferociti. Io voglio ricordare loro che quando c'è stato l'11 settembre persone come me hanno messo la bandiera americana alla finestra, mentre magari qualcuno di loro era in piazza a bruciarla la bandiera americana. E Obama non è che farà la differenza, che cambierà il mondo e da domani ci sarà un mondo di pace, chissà quale cosa potrà succedere. Sicuramente segna un grande cambiamento che tutti noi ci auguriamo, però saranno molto delusi gli amici della sinistra quando domani Obama chiamerà ancora gli italiani e gli europei insieme in Afghanistan a magari a migliorare l'intervento, e loro cosa faranno? Toccherà dire che lo dice Obama va fatto? È questo che mi dispiace in Italia, c'è una parte di molto che non ha capito molto bene come funziona chiaro. Il mondo. Le dico perché sono contento del tasso di interesse, non solo perché passiamo nell'eurozona dal 3.75 al 3.25 con un recupero di mezzo punto che sarà più di qualche decina di euro sulle rate, sulla rata media saranno forse 40, ma perché Jean-Claude Trichet, che è il mio mostro, cioè io lo odio per quello che ha fatto, ha anche detto che siccome le prospettive di stabilità dei prezzi sono migliorate e il rischio inflazione è calato, si potrebbe fare un ulteriore taglio nei prossimi giorni, che vuol dire che si ritorna quasi ai livelli dell'ottobre 2006, ecco, possiamo arrivare a questo, le nostre rate ritorneranno ai livelli che avevano. Mauro da Modena. Buonasera. Buonasera. Salve, mi sente? Benissimo. Allora, io sono un piccolo obamizzato, anch'io mi sono obamizzato, però sono seriamente... Le mandiamo il rap, il rag di nuovo, glielo esatto. Mandiamo a richiesta, no, però... via. Gente, este es un hombre preparado, la esperanza ha llegado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Ora, lei è obamizzato, prego. Sì, però sono seriamente obamizzato. Le spiego, anche perché questa persona... Cioè vuol dire che noi e gli altri ascoltatori non lo siamo seriamente? No, io sono preoccupato perché è un'aspettativa che secondo me la sentiamo più noi che gli americani. Io vedo gli italiani impazziti, compreso anche il segretario del PD, signor Beltroni, che ha detto, che ha dichiarato che ha contribuito alla vittoria. Però io penso che se una persona come lui viene eletta alla presidenza degli Stati Uniti, come tutti gli altri 43esimi presidenti che sono stati eletti, dico, chi è che ha sponsorizzato questa campagna elettorale che è costosissima? Se Obama ha speso 10 volte quello che ha speso McCain, che McCain ha speso qualcosa di inverosimile per noi, si parla di 50 miliardi. Qualcuno gli presenterà il conto prima o poi. Cioè, non vorrei che tutta questa gente, io sono contento che sia lui il prossimo presidente. Io penso che in politica estera cambierà poco, perché si è visto anche nei presidenti prima di lui. Però Però io penso che sia una persona normalissima come tanti, che spero che faccia bene, ma non facciamone un santo, perché non può esserlo, perché è il presidente degli Stati Uniti, è l'uomo più potente al mondo, per cui io penso che tutta questa gente qua che si sta strappando le vesti e i capelli, molti di questi secondo me rimarranno delusi. Io sono va d'accordo bene, con abbiamo con le indicazioni del traffico, la ringrazio e ci sentiamo più tardi. Che strada fa? Buonasera, sull'Autosole si incontra coda in direzione di Bologna per un incidente tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Parma. C'è un incidente anche sul nodo di Genova in direzione del capoluogo ligure, code sulla 12 Genova Livorno tra Genova Est e il bivio per la 7 Milano Genova. Sulla tangenziale est di Milano si avvertono ancora le ripercussioni di un incidente risolto, ci sono code tra l'Autosole e Gobba in direzione di Usmate Velate. Per lavori code di 2 km sulla 4 Venezia Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. Altre code per lavori sulla 10 di Fiori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Il prossimo aggiornamento alle 20.45. La Zanzara. Rieccoci, allora un ascoltatore ci aveva di nuovo parlato dell'enigma di Obama, ad esempio sul finanziamento, un tema che a lungo ha discusso a questi microfoni Christian Rocca, il nostro mind, la nostra mente sull'America. Allora introduciamolo ormai col tormentone della serata e sentiamo che cosa ha da dirci. Como se dice, como se llama, Obama, Obama. Christian, eccoci. Como se dice? Come si chiama? Barack Obama, no? Allora, sai che ti dicevo che c'è questo sito, l'Antizanzara, è molto interessante perché ogni puntata fa una recensione millimetrica di tutto quello che viene detto e oggi l'Antizanzara si è arrabbiata con te perché ha detto «Ah, ma come? C'è stata un'affluenza record, che cosa dice Rocca sull'affluenza elettorale?» Allora, intanto ancora i dati definitivi non ci sono. Quando ti ho dato io quella risposta a una tua domanda, i dati erano quelli, erano semplicemente, ho detto, un paio di milioni in più rispetto alla volta precedente. Nel frattempo sono cominciati a uscire altri risultati. Ripeto, in America è sempre difficile sapere subito i dati dell'affluenza, certo, perché ci sono gli absentee ballot, i voti mandati per posta, cose di questo tipo, eccetera, quindi ancora non sono definitivi. Nel frattempo ne sono arrivati altri e quindi il tuo recensore in parte ha ragione. Però non c'è stata una straordinaria mobilitazione come si prevedeva. C'è stato, voglio dire, un incremento di una campagna che è durata 2 anni, storica, allora, l'uomo, il nero, la donna vicepresidente, gli 8 anni della guerra Bush, è stata una grande partecipazione, ma non straordinariamente superiore come ci si aspettava. Allora, ti giro l'interrogativo che affiora qua e là fra molte telefonate dei nostri ascoltatori, con un umore entusiastico ovviamente da parte di quelli che sono tendenzialmente di centrosinistra, con un umore più scettico da parte di quelli che sono di centrodestra, ma adesso Obama cambierà tutto, per dire, nella politica internazionale? Cambierà tutto, bella domanda. Intanto ha scelto il suo chief of staff, il suo capo di gabinetto, che non è come il capo di gabinetto di un ministero italiano, è veramente la persona che gestirà la Casa Bianca di Bush. Ha scelto un personaggio di Obama molto simpatico, che si chiama Rahm Emanuel, detto Rambo, malgrado abbia un passato da ex ballerino di danza classica, lo chiamano Rambo appunto perché è un tipo tosto e spiccio, nato e cresciuto a Chicago. E per esempio lui ha i suoi parenti, suo padre sta in Israele, lui parla ebraico e suo padre ha dato un'intervista a un giornale israeliano dicendo: sono molto contento della nomina di mio figlio perché sarà questa è una nomina che fa molto bene a Israele e mio figlio influenzerà il presidente a fare delle politiche. Certo che questi padri una cosa, ti rovinano la piazza proprio quando fanno una cosa così. L'avrà avvisato che diceva questo? Pronto? Oddio. Non ho sentito la domanda. No, dicevo che questi padri il primo giorno già ti rovinano la piazza con pericolose dichiarazioni filo israeliane. Un Barack Obama che cambi politica soprattutto su Israele sarà non deluso, si dovrà buttare dall'ultimo piano dell'Empire State Building. Cioè, l'America ha una politica filo israeliana da Truman in poi, diciamo, e continuerà ad averla e probabilmente ancora di più con questo presidente. Oggi è stato impressionante tutte le telefonate che abbiamo avuto, chi per lodare, chi per difenderlo, chi per criticarlo, censurarlo, hanno parlato della famosa frase sulla bronzatura di Berlusconi riferita ad Obama. Secondo te Obama la saprà in tempo reale o resterà una marginalità che anima i dibattiti italiani? Beh, intanto è in questo momento è l'apertura di Drudge Report, per cui lui probabilmente non guarda Drudge Report. Il Dagospia, scusa, diciamo cos'è, è il Dagospia americano per noi che siamo paesani. Diciamo. Sì, diciamo, insomma, adesso non buttiamolo così giù, ma insomma sì, più o meno il Dagospia italiano, il sito che fece per primo lo scoop, per intenderci, sul sex gate. Tutta la vicenda di Monica Lewinsky e Clinton, il sesso orale, quindi è stato un sito molto, molto letto. E secondo te che reazione c'è in America, nell'America politicamente corretta, a questa frase? Pronto? Purtroppo non ho sentito la domanda. Dicevo, secondo te che reazione c'è in America a questa frase? Beh, insomma, non lo so, non so dirti che reazione c'è in America, però insomma, ovviamente Berlusconi se la poteva evitare e se io fossi in Obama gli direi la prossima volta che lo incontra, magari già nelle prossime riunioni del G20, del G8, non so, gli direi: beh, caro Berlusconi, mi sembra un po' pallido. Certo, va bene, abbiamo un'altra canzoncina obamiana in versione messicana, sentiamola e poi torniamo a parlare con te. Al candidato, ¿quién es Barack Obama? Este corrido le canto con el alma, humilde, buen nacido, también sin pretensión. Empezó por las calles de Chicago, trabajando para lograr una visión, para proteger a la gente. Allora, anche i mariachi obamiani, ma McCain ce li aveva i texani che cantano per lui? Come no, aveva grandi star sconosciute agli europei e anche a chi sta a New York o nelle città, diciamo, sulla costa. Aveva le grandi star della country music che stavano. Ah, ecco, il country stava per McCain, questo ci fa piacere. Senti, ma McCain che cosa farà? Perché ha suscitato qui in Italia un'onda pazzesca di simpatia, ancora oggi gli ascoltatori italiani ricordano questo suo discorso che è piaciuto veramente a tutti. Che futuro ha? Ma ha il futuro, intanto è senatore dell'Arizona e quindi cioè, a Washington, in rappresentanza del suo stato che è l'Arizona, e continuerà a fare quello. Non avrà più alcun ruolo nel Partito Repubblicano perché il Partito Repubblicano non lo ama, non ha nessuna, come dire, speranza di ricandidarsi alle elezioni tra 4 anni perché è troppo anziano, e continuerà a fare, secondo me, il senatore un po' rompiscatole e indipendente. Non escludo che sarà uno dei grandi alleati di Barack Obama quando Attenzione. A Barack Obama servirà il consenso anche di qualcuno dall'altra parte. Adesso abbiamo un reperto di quelli che ci fanno impazzire su Sarah Palin e poi vorrei chiederti che cosa farà invece lei, se si parla addirittura di una possibile seconda discesa in campo. Per favore, non la prendete come un attacco personale, però tante cose che sono state riportate potevano perfettamente essere capite bene e riportate bene come il nostro governo lavora. Tanti media non hanno corretto, non hanno riportato le cose come veramente erano, mi hanno lasciato un po' con l'amaro in bocca, devo dire. Io non voglio che gli americani pensino qualcosa di sbagliato. Voi della stampa siete la fondazione, una delle basi della nostra democrazia. Io voglio che gli americani vi credano, non potete dire a volte delle cose sbagliate. Ci deve essere un'informazione accurata, è una questione di trasparenza, di capabilità. Eccolo qua, allora Sarah Palin che se la prende con i giornalisti e ti volevamo chiedere, Christian, ha un futuro politico? Beh, insomma, è la domanda che tutti si pongono in queste ore. Lei è tornata in Alaska, dove è governatrice ancora per 2 anni, e dice che ovviamente si occuperà del suo stato e che penserà soltanto a quello. Però ovviamente non è così. Lei in questo momento è forse la leader con più consenso, certamente la leader con più consenso e seguito dentro il Partito Repubblicano, considerato come base repubblicana, conservatrice, gli elettori. Ha radunato folle immense e certamente cercherà di giocarsi la partita. Se ci riuscirà o meno è un po' dura. Sai, essere una 44enne dell'Alaska senza nessun rapporto a Washington, eccetera, sarà difficile per lei. Dovrà costruirsi una squadra, un team. Almeno prendere il passaporto, eccetera, e fare qualche viaggio all'estero. No? Sì, potrebbe fare qualche viaggio. Sì, ma anche guarda che anche Barack Obama non è uno noto per aver fatto grandi viaggi all'estero, anche se per esempio ovviamente ha passato parte della sua adolescenza in Indonesia con la madre. E poi ha creato un grande evento mediatico che forse a questo punto si può dire ha inciso sulla sua vittoria, con la visita berlinese sulle orme di Kennedy. Sì, un evento pazzesco che ha avuto un eco meraviglioso in Europa e che qui a un certo punto rischiava di fargli perdere il vantaggio che aveva. Davvero? Perché, insomma, perché? Hanno visto questa cosa un po' come una... Come dire, sono già presidente e parlo con gli alleati europei. Non è piaciuta moltissimo agli americani questo viaggio, infatti quasi è stato poi dimenticato. Sentiamo Alessandro da Napoli e torniamo a parlare con Christian Rocca. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono un elettore di sinistra, ma volevo fare un sincero complimento a Berlusconi, davvero sincero. No, ma è sul serio, può sembrare una polemica, ma è davvero un sincero complimento, perché in una giornata, in un momento in cui tutti parlano delle elezioni americane, in una giornata in cui in Italia si iniziano ad accendere i fuochi della finanziaria, Berlusconi, che non sarà uno statista ma è un animale politico di un'incisività unica, riesce a far parlare di sé giornali, telegiornali, stampa, noi normali cittadini. E quindi ripeto, davvero, davvero complimenti, perché io non penso sia un battutista, ma penso che molto spesso dietro le sue parole ci siano delle azioni che poi hanno un'incisività politica. Tutto qua. Bene, grazie mille. Abbiamo ancora al telefono Christian Rocca, sentiamo per tenerci caldo qualche buon ascoltatore. Federico da Roma. Buonasera. Sì. Sì, pronto, buonasera. Prego. Io vorrei semplicemente fare un'osservazione su quanto mi è successo negli ultimi 2 giorni, premesso che sono un 29enne carico d'energia per cercare di portare qualcosa di positivo in questo paese, da libero professionista. Ieri sera, uscendo dal cinema, ho visto i manifesti che il PD ha fatto dopo la vittoria. Cos'era andato a vedere? Come? Cos'era andato a vedere? The Women. Ah, com'è? Grazioso. Ah, è importante. Allora, ha visto i manifesti del PD proprio all'uscita del cinema e che cosa ha pensato? Ho pensato semplicemente che quello che stava architettando il grafico che ha fatto, o comunque la mente pensante che ha avuto l'idea di realizzare quei manifesti, voleva in qualche modo emulare la vittoria, però mi è suonato un po' come la storia della volpe l'uva. Ma al di là di questo, ha risvegliato in me una coscienza da italiano. E stamattina, andando al lavoro, ho pensato: che cosa c'è di sbagliato in quello che stiamo vivendo noi? Mi sembra che stiamo vivendo una sorta di secondo pianismo che ci rende quasi, come dire, invidiosi di quello che è successo. Cioè, al di là dell'oceano si sta facendo la storia e noi siamo qua ancora a guardarci i piedi come se fossimo dei struzzi. Probabilmente la nostra classe dirigente, destra, sinistra, centro, non me ne importa niente di chi sia, ancora sta pensando di realizzare qualcosa che appartiene a 30 anni fa, probabilmente, prendendoci in giro. Ed ecco probabilmente il motivo per il quale noi siamo nervosi, non riusciamo a guidare, non riusciamo a vivere correttamente come bisognerebbe vivere questo paese. A mio avviso siamo, ed ecco il mio intervento, a mio avviso noi siamo un paese straordinario, ma non siamo una nazione come lo sono gli Stati Uniti. Bene, grazie di questa osservazione. Christian. Sì, volevo sì, aggiungere una cosa a quanto detto dall'ascoltatore. Questa mattina il Wall Street Journal si apre con un titolone, tutta la pagina su Barack Obama, come hanno fatto tutti gli altri giornali, con una foto. E questa foto illustra una strada di Roma con due suorine che guardano un po' stralunate il manifesto del PD di cui parlava il Ah, e quindi arriva tutto lì in America. Sì, quindi praticamente Walter Veltroni non ce l'ha fatta, insomma non gli viene riconosciuto, se non da Cossiga, questa cosa su Barack Obama, gli viene riconosciuto un po' indirettamente sulla prima pagina del Wall Street Journal. Non solo, sulla prima pagina dell'inserto sulle elezioni del Washington Post c'è un collage di 10 fotografie che illustrano come nel mondo è stata presa questa elezione di Barack Obama, con i posti più strani della terra, non so, il Congo, l'Iraq, le cose eccetera eccetera, e di nuovo la foto del poster di Walter Veltroni, di nuovo il mondo cambia, incredibile eccetera, eccetera. Quindi, va bene. Marcello da Milano. Sì, buonasera. Ecco, io ho tre domande da fare. La prima è: si sa per caso a chi dovrà pagare il conto poi Barack Obama per quanto riguarda le lobby che lo hanno appoggiato? Perché... Allora, guardi, lo giro subito a Rocca questa domanda. Questo, già un altro ascoltatore di sinistra in quel caso ci ha detto ma insomma questi 50 miliardi di dollari non saranno arrivati dal cielo. Come 50 miliardi? No, sono 600 milioni di dollari. 600 milioni di dollari. Sarebbero un po' troppi. No, ma diciamo che Obama non ha avuto particolari grosse lobby dietro il finanziamento della sua campagna elettorale. Ha avuto, come è noto, molti piccoli contribuenti che con 100, 200, 300 dollari hanno finanziato la sua campagna elettorale, ma al di là di tutta questa retorica un po' propagandista, ovviamente ha avuto anche più importanti sostenitori. Diciamo che le lobby vere che dietro la sua candidatura sono per esempio quelle dei sindacati. E in ballo c'è una questione molto importante, anche se un po' tecnica, che è quella del voto segreto o meno dentro le fabbriche. Allora lì Obama dovrà andare incontro alle richieste che hanno fatto i sindacati, che lo hanno molto appoggiato soprattutto alle primarie contro Hillary Clinton. E se non lo farà, insomma, un po' si arrabbieranno. Non so a quali altre lobby si riferisse l'ascoltatore, ma insomma qui è tutto molto trasparente. Ma ha pesato molto il differenziale economico fra lui e McCain, cioè il messaggio di mezz'ora, per esempio, a reti unificate? In che senso? Ha contato, secondo te, sull'esito questa incredibile sproporzione di mezzi? L'incredibile sproporzione di mezzi, ha facilitato la vittoria, e quell'ultima mezz'ora di spot comprato con tutti questi soldi in prime time televisivo sui network, ha consolidato, ha messo il marchio, come dicono qui, ha messo i chiodi ha chiuso la partita, però secondo me ce l'avrebbe fatta anche senza. Considera una cosa, che Obama quando è partito 2 anni fa non era nessuno, cioè era un senatore appena eletto, 4 anni fa ha fatto il primo discorso ad una convention, 8 anni fa a Los Angeles, quando i democratici hanno incoronato Al Gore, non l'hanno nemmeno fatto entrare nella sala della convention, è dovuto ritornare in albergo perché non aveva gli accrediti. Insomma, è uno che così, con pochi outsider mesi, puro, è affidato e battuto la macchina dei Clinton, cioè la vera straordinaria macchina di finanziamento, di organizzazione delle lobby eccetera, di Wall Street soprattutto, degli Stati Uniti. L'ha battuta con niente, perché poi a poco col suo messaggio, con la sua storia, con la sua biografia, è riuscito a creare un movimento, e quindi anche sono arrivati i soldi. Benissimo, mi sembra evidente. Allora, Marcello da Milano. Sì, ecco, bene, spero allora a questo punto che sia veramente un uomo libero. Chi? L'altra domanda è Barack Obama. Ah, Obama. Sì, perché servono gli uomini liberi. E ci tengo a dire uomo perché effettivamente l'altra domanda è: quando è che si finirà di dire il nero, il giallo, il rosso, il verde, l'abbronzato, il caffè latte o cose di questo tipo? Questa è una domanda che ci saranno i posti di risolvere questo quesito. Non c'è dubbio. Il terzo quesito invece è che o guardo poco la televisione, o sento poco la radio, giro poco in internet, sono sempre in giro a fare il mio lavoro, perciò è difficile da capire. Ma che fine ha fatto Beppe Grillo? Ma questa è una domanda che merita un'altra puntata. Il nostro tempo è arrivato alla fine. Salutiamo Christian Rocca, che è ancora all'apparecchio. Lo salutiamo e vi rimandiamo a domani. Grazie mille.